Hey, we've had some break-ins in my neighborhood, and there's a real suspicious guy. Seems like everything is everywhere. Fear the media that make y'all swallow the pill until we clear the air. Beware, because adversaries barely care. You start off doing it, it ends up doing you. And using it ends up abusing you and your surrounding crew. The charisma of ignorance makes you hate where you at. Bitter makes you better when y'all backed by the fact. Segregation, integration, aggravation, anti-immigration. From a land in total desperation. Rieccoci ai microfoni di Radio Wombat. Anche questo lunedì sera ce l'ho fatta. Va in onda Coccoli al Silicio, in diretta per la terza settimana di fila. Appunto, se arrivo a fine mese mi danno la medaglietta. E perché io sono solito saltare sempre. E comunque non ho pubblicato i podcast, quindi questa sera in realtà, terminata la trasmissione, pubblicherò sul sito della radio i podcast delle ultime tre puntate di Coccoli al Silicio. Finora andavo solo con le dirette e le repliche. Questa sera cambio un po' il panorama musicale. Di solito si ascolta sempre funky, afrobeat come intermezzo della trasmissione. Oggi invece vi faccio ascoltare un album, Devil Empire of Everything, dei Public Enemy, che ci accompagnerà un po' per tutta la serata. La prima notizia della serata in realtà non è veramente una notizia fresca, è solo un richiamino alla memoria, visto che oggi a Roma il Papa ha deciso di incontrare Erdogan, lo riceveva in Vaticano il presidente dittatore della Turchia. Ecco, volevo ricordare qualcosa che è accaduto soltanto un paio d'anni fa, nel 2016, quando il signor Erdogan, sostanzialmente per bloccare un leak di questo gruppo di hacker turchi pro Kurdistan che si chiama Red Hack, che negli anni ha avuto una lunghissima carriera, diciamo, c'è anche un documentario che potete trovare che racconta un po' la loro esperienza dalle loro vive voci, cioè ci sono proprio le interviste a questi personaggi che si caratterizzano per essere un gruppo estremamente politicizzato. Ecco, anni fa avevano, diciamo, pubblicato un leak di molti documenti sottratti da computer governativi e diciamo fonti di questo tipo, con una serie di documenti per spiegare gli interessi economici che l'intera famiglia Erdogan ha in Turchia. E il buon Erdogan ha pensato bene che per fermare questo leak di fare una di quelle mega censure per cui poi la Turchia è diventata famosa. Sostanzialmente ha chiuso l'accesso alla Turchia a praticamente quasi tutti i siti che potevano in qualche modo fare da deposito per questo leak, e quindi ha chiuso senza pensarci troppo l'accesso a GitHub, a Google Drive, a Dropbox e a tutta un'altra serie di siti che di solito ospitano loro malgrado questi pacchetti di dati, e fare quindi questa colossale operazione di censura per cui poi la Turchia è rimasta abbastanza famosa. Adesso l'ha rifatto anche dopo, d'altra parte così si difendono i regimi. Il nostro buon Papa Francesco certamente ha deciso che era il caso di incontrare questo personaggio proprio adesso che appunto i turchi stanno bombardando da un paio di settimane il territorio curdo e oggi infatti c'era questo presidio che è stato anche caricato, ci sono stati alcuni arresti quando il presidio ha cercato di trasformarsi in corteo e dirigersi verso il Vaticano. E questo è quanto, il presidio è rimasto praticamente bloccato tutto il giorno, accerchiato dalle forze dell'ordine, e quindi è doveroso da parte nostra aprire ricordando le gesta di costui, di questo signore Erdogan. Ho cercato un po' di caratterizzarle, onestamente ha fatto di peggio che non solo questa cosa qui, però ho cercato un po' di caratterizzarlo sui temi che tratto di solito, cioè le notizie che provengono dal mondo dell'hacking e informaticoso. Ora vi lascio con un pochino di musica, intanto che mi preparo il resto della puntata. Quest'oggi avremo 3-4 argomenti abbastanza sugosi dal punto di vista tecnico e non. E poi in chiusura della puntata ci sarà anche una novità che dovrà trovare poi uno spazio o altro, ma che per ora mi fa piacere di ospitare, nel senso che la biblioteca del Next Emerson ha prodotto una produrrà nelle prossime una alla settimana la recensione di un libro. E non sappiamo ancora bene dove trovare una collocazione per questi 10 minuti, quarto d'ora di recensioni, e quindi per ora li ospito io a fine della mia puntata. Vi godrete anche la presentazione radiofonica, recensione, presentazione, no, più che presentazione, recensione radiofonica di un libello che poi vi annuncio il titolo, eccetera, in corso d'opera durante la puntata, ma comunque sarà in chiusura. E quindi niente, un pochino di musica, Public Enemy, e poi continuiamo con Coccoli al silicio. And they don't even know what the fuck it means. Y'all can stop it on the three or they can drop it on the one. The PEAC has just begun. My mind is mine, my grind is thine. I've been that age, they ain't been mine. So watch me working for my circuit. Against their purpose, I keep it true from the youth. A PI circus, and tell y'all speed is what y'all need. Make you consume, to get the boom. No answers, no dances, y'all just consume. When the party's done, they just tearing up the room. They can bomb the earth to pieces, they can't calm the world of peace. The lease is up in this belly of the beast. Humans turn into damn machines, and they don't even know what the fuck it means. Y'all can stop it on the three, but they can drop it on the one. The PEAC has just begun. Y'all can stop it on the three, but they can drop it on the one. The PEAC has just begun. One for the trouble, two for the bass. Come on, David D, let's rock this place. Rock, rock, rock, drop, get on. Pop, don't stop. Vi ricordo anche, sempre riferito ai problemi che il Kurdistan sta avendo in questo periodo, che il 17 febbraio a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale in sostegno della causa curda. Sono in preparazione alcuni pullman, speriamo più di uno da Firenze per partecipare a questa manifestazione. Vi invito quindi a mantenervi informati. Presto pubblicheremo anche sul sito della radio, le informazioni per prenotarsi per i pullman, e si tratta appunto di sabato 17 febbraio. La prossima notizia che volevo dirvi è sempre una notizia riguardante un'attività repressiva. Purtroppo questa è una notizia mediamente buona nella sfiga, ma non si sa per quanto, diciamo, per quanto potrà essere ancora diciamo una buona notizia, nel senso che riguarda un hacker, e ne avevamo parlato qualche, forse la puntata scorsa, forse quella prima, non mi ricordo più, di giovani hacker sotto processo per aver violato siti e account di mail, Twitter e quant'altro di alcuni personaggi dell'intelligence americana. Ecco, andiamo di nuovo a parlare di una vicenda simile, ma che si riferisce a qualche anno fa. Proprio in questi giorni, infatti, è stato rivisto l'appello, è stato, diciamo, ripresente, è stato, come si dice? Diciamo, hanno la Corte d'Appello inglese, ecco, ce l'ho fatta. La Corte d'Appello inglese si è pronunciata sull'estradizione negli Stati Uniti di Lori Love. Lori Love è un hacker che era stato arrestato, diciamo, nel periodo più vigoroso delle operazioni di Anonymous. In particolare è stato accusato di aver partecipato come protagonista all'operazione Last Resort, che era quella sostanzialmente che Anonymous svolgeva nel momento della vicenda, nei culminanti della vicenda di Aaron Swartz, un ragazzo che si è suicidato qualche anno fa dopo essere stato condannato a una pena enorme, o almeno cioè che rischiava di essere condannato a una pena enorme, e poi si è sottratto, diciamo, al processo ammazzandosi, sostanzialmente per aver pubblicato dei documenti sostanzialmente tecnici che aveva preso da una specie di archivio del MIT, documenti che peraltro uno poteva ottenere richiedendoli in formato stampato, ma non poteva ottenere in formato digitale. Ne aveva presi anche un certo numero, è finito sotto processo, rischiava diversi anni di carcere per questa cosa. Era stato proprio stigmatizzato, come si usa fare quando si vuole stroncare un fenomeno sul nascere, quindi proprio per stroncare un fenomeno alla fine di insubordinazione in maniera decisa e ottusa, come spesso i governi sanno fare. E lui non ha retto la pressione di tutto questo e si è ammazzato. Potete anche cercare dei documentari, è una vicenda piuttosto famosa. C'è un documentario che si intitola The Internet's Own Boy, che racconta un po' in maniera approfondita questa vicenda. Ecco, nel 2014 c'era appunto un'operazione di Anonymous che ha colpito diversi siti governativi americani, e anche siti di banche e cose simili, essenzialmente principalmente con data leak abbastanza sontuosi. E ecco, questa vicenda ha avuto poi un retroscena giudiziario. In particolare è finito nei guai questo Lori Love, che in quel periodo si trovava però in Inghilterra. E quindi è stato processato lì dove era. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. Attenzione che lui negli Stati Uniti rischia 99 anni di carcere e una multa da diversi milioni di dollari, una roba tipo 9-10 milioni di dollari per questa, per, diciamo, per la partecipazione a quest'operazione. E anni fa, nel 2016, in una fase del processo, appunto, il giudice inglese aveva deliberato per l'estradizione. Ora, l'avvocato di Lori Love, diciamo, ha fatto appello, essenzialmente puntando tutto su una sorta di infermità mentale, cioè sostanzialmente. Si sono giocati in tribunale la carta che lui fosse autistico e avesse diversi problemi di salute, che in effetti ha, nel senso che nella sua vita Lori Love ha avuto diverse crisi di nervi anche pesanti, che quindi l'estradizione l'avrebbe sostanzialmente demolito, e questo non abbiamo difficoltà a crederlo, ecco, e soprattutto se l'estradizione significava poi un processo dove rischiava 99 anni di carcere. 99 anni di carcere è praticamente un ergastolo. Avere un ergastolo per aver violato dei siti internet è qualcosa di completamente incomprensibile, secondo me, a qualsiasi persona dotata di un minimo di raziocinio che non sia un militare oppure che non faccia parte di qualche governo, perché è assolutamente una pena folle, completamente folle. Ecco, la notizia buona è che il nuovo giudice che ha preso in esame il caso ha, non penso che gli Stati Uniti si rassegneranno così facilmente, visto che appunto si distinguono per una certa ottusità nel modo di trattare questo. D'altra parte non so quale governo non risulti autoritario e ottuso in quest'ambito, non saprei proprio dirvelo. Abbiamo parlato appunto prima del governo turco e potremmo parlare male praticamente di qualsiasi governo mondiale, cioè di qualsiasi governo sulla terra in questi termini, però lo facciamo fare, ecco, ai signori public enemy che ne hanno tante da dire. Io mi riattaccio e, cioè, sto zitto, riattaccio se non è un termine italiano. Torno a essere silenzioso e lascio spazio alla musica e intanto mi preparo la prossima notiziola che questa volta sarà più tecnica, però comunque sempre succosa e un pochino spero interessante. Got no way to plane, what I mean is got no private jets. But I also got no regrets, got no swag. What I got, no love, some I never had. All of it, yeah, everything, yeah, everything. We got it all. We got it all. You know that. Nothing's changed, it ain't same. Got nothing to do everything. With things. We got it all. Look around, you probably have the same thing. I'm telling you. I'm telling you, stop taking your life for granted. Everything we got. Look at it on TV. All those things that you see people got. Nothing's changed, feel the same. You got your help, you never got your help. We got it all. Say the verse. I'm telling you. Got no mansions, restaurants, I got no yacht. Well, I got no choice but to show y'all what some of us forgot. Never was hot, never was pop, but I never ever stopped that real hip hop. Got no paparazzi, got no company that got me. Walking alone in the hood, so it's easy to spot me, y'all. Got no million follower friends on Twitter, on Facebook, look at my friends. Got no thing for video games, got no shame saying I ain't never playing. Got no hate for things that are great, don't you know I salute. Probably got the same we thing. Got it all. We ain't never talking about no things here now. Nothing's changed, feel the same. Everything. Look at your loved ones. We got it all. Look at your young ones. I'm telling you. If you got the old ones around, love them, talk to them, we got love it them, all. Love them. Damn right. Sfumiamo questa bella musichina dei Public Enemy e per parlare invece di qualcosa di più noiosamente tecnico, ma i nomi sono bellini, quindi forse tanto noioso non è, non lo so. È comunque una roba che è addirittura arrivata ai grossi quotidiani, nel senso che se vi ricordate, circa un mesetto fa i quotidiani parlavano, anche quelli meno specializzati nelle loro sezioni tecniche, di questo bug che andava a colpire alcuni processori, quasi tutti in realtà, della famiglia Intel e pare alcuni AMD, anche se l'AMD poi ha detto no, non è vero, noi non ce l'abbiamo, però non si sa se questa cosa sia provata nei fatti oppure no, nel senso che comunque non ci sono ancora studi tantissimissimo approfonditi. Comunque è una roba interessante perché i processori che sono interessati da questa roba sono sostanzialmente praticamente tutti quelli della famiglia Intel prodotti negli ultimi 10-15 anni. Ora il fatto si sfrutta molto meglio paradossalmente in quelli più nuovi perché sono più veloci e quindi ti permettono di portare a termine l'attacco qualche volta con successo rispetto a quelli vecchi che invece magari sono troppo lenti e questa cosa non funziona. È strana anche questa uno penso roba vecchia peggio e invece qualche volta roba vecchia meglio. Questi due attacchi sono passati sotto il nome di Meltdown e Spectre. Ora, non, diciamo, è un po' complicato spiegarli in radio. Io ho, in realtà ho fatto una puntata come ospite presso gli studi Radio Blackout a Torino per una trasmissione che si chiama Il Beat C'è o Non C'è, in cui abbiamo provato a trattare anche tecnicamente questa roba. Non voglio ri ripetere l'esperimento perché è stata una fatica allucinante, però vi do dei link che magari vi interessano. Uno è meltdownattack.com che sostanzialmente spiega abbastanza bene entrambi gli attacchi, fa una specie di sintesi anche un po' divulgativa. In bella sostanza, diciamo, l'attacco Meltdown permette diciamo, di rompere l'isolamento tra le applicazioni che girano a livello utente e il sistema operativo. Ora, magari non ha tanto significato questa cosa per i più, però non è neanche così difficile da capire. Diciamo che i sistemi operativi moderni sono fatti perché, che ne so, un'applicazione, ad esempio un browser, non possa accedere a una parte di memoria riservata solo al sistema operativo, altrimenti sarebbe, un gran paciocco perché tutti vanno a sbirciare tutti. E infatti quello che l'attacco fa è proprio questo, cioè cercare di sfruttare questo bug sostanzialmente per accedere a varie parti della memoria. In queste varie parti della memoria ci possono essere tante cose, tra cui ad esempio cose che di solito non andrebbero rivelate, tipo le password e queste cose qua. Di solito quando uno tenta di avere una password, tendenzialmente ci sono tanti modi. Però, a parte se tagliamo proprio con l'accetta, o io la password te la chiedo, in qualche modo ti induco a darmela. Un'altra alternativa, questa più, quest la prima spesso è un'alternativa quasi psicologica, cioè ti induco a darmi la password. Ti frego, in qualche modo ti fa una telefonata e in qualche modo cerco di avere la tua password. Oppure la frego da qualche parte. Ecco, Meltdown è un'ipotesi tecnica, diciamo, per riuscire a leggere parti della memoria e quindi trovarsi, nonostante il legittimo proprietario magari non abbia fatto nulla di sbagliato dal punto di vista della sicurezza, la password gliel'ho chiesta e non me l'ha data, capito? Gli ho mandato la mail di phishing, no? Dove gli dico mettimi qui le tue password su un sito malevolo che poi te la risucchia, ma lui è furbo e non ci ha cliccato. L'antivirus ha fatto il suo porco mestiere, ha bloccato tutti i virus che rubavano eccetera, eccetera. Insomma, si è intuito, io ho fatto tutto bene. Il problema è che il mio processore ha un difettino. E questo difettino si può. Se diciamo non ci sono veramente ancora campagne di massa per questa cosa qua. Però, la notizia di questa sera è appunto che i siti di antivirus, quelli che fanno un po' di diciamo di monitoraggio su queste cose, hanno trovato già 139 malware. Malware, sì, nel senso si parla di solito di sample dei malware, cioè di cose trovate sui computer che in qualche modo vengono poi passate agli antivirus, eccetera. Gli antivirus di solito quando analizzano delle cose nuove non sanno bene cosa sono, ma capiscono che potrebbe essere un virus, lo rimandano alla mamma, cioè alla casa base, diciamo, no? E quindi tu avete l'antivirus, che ne so, avete tutti quelle, che ne so, AVG, cioè che ne so che cazzo di Norton, non so che vi antivirus, di il Panda, cioè queste cose qua, tutti questi antivirus. Ecco, diciamo che questi antivirus collezionano roba e poi ogni tanto gli analisti pubblicano delle specie di report. Ecco, uno di questi report fatto da questa AV-Test, che io non so bene cosa sia, lo dovrei cercare, qui parla di ricercatori indipendenti, quindi saranno della gente che non appartiene a nessuna delle grosse case, ma va a cercare appunto questi dati pubblicati in giro. Hanno trovato 139 malware che tentano di sfruttare sostanzialmente questa vulnerabilità. E la maggior parte di questi hanno sostanzialmente sono varianti o che tentano in qualche modo di rifarsi a quello che è stato pubblicato, cioè questo Proof of Concept. Si parla di POC, cioè l'acronimo è POC, cioè quando io trovo una vulnerabilità, provo a pubblicare di solito per far vedere che c'è una specie di test. Dicevo, boh, si farebbe così. Ecco, è stato pubblicato un test basato su tecnologia JavaScript, quindi una roba che tenta di sfruttare questa roba a partire dal vostro, questa vulnerabilità a partire dal vostro browser, quindi dalla normale navigazione, e hanno trovato appunto che questa cosa, diciamo questo test pubblicato, è stato in qualche modo rimaneggiato per tentare di creare, che ne so, un nuovo WannaCry o queste, diciamo, queste cose virali che mandano nel panico il mondo dell'informatica. Pare che finora nessuno, in realtà, di queste cose abbia avuto ancora una diffusione tale da preoccupare, però è interessante perché questo bug comunque ha anche dei risvolti buffi, in qualche modo, nel senso che l'Intel ha dovuto fermare l'aggiornamento, diciamo, il rilascio degli aggiornamenti che potevano mettere in qualche modo la vostra CPU al sicuro, perché è sostanzialmente un gran casino patchare questa roba. Uno, perché spesso cioè le persone non aggiornano il computer, meno che meno vorrebbero aggiornare il firmware della propria CPU, ecco. E comunque anche dove è stato fatto si è registrato alcuni problemi, nel senso che molti computer iniziavano a rebootare da soli, facevano cose strane, e quindi diciamo che la patch introduceva a questo punto un problema in termini di funzionalità. Cioè tu c'avevi il computer patchato e però non riuscivi più ad usarlo troppo bene perché faceva delle cose strambe, e quindi hanno bloccato gli stessi diciamo, produttori dei processori Intel gli aggiornamenti. Quindi diciamo che questo meltdown e questo Spectre ce li porteremo ancora a lungo come possibili bug dei nostri computer. E ora vi ho parlato principalmente di meltdown perché in realtà pare essere più facile da sfruttare. Quell'altro Spectre, che ha questo nome che è tutto un programma, anche il fantasmino che hanno disegnato come logo è una roba che assomiglia un po' a come si chiamava Casper, se ve lo ricordate, quello dei cartoni animati. Questo fantasmino con la faccia un po' cattivella è un bastoncino in mano come se vi volesse sculacciare. Questo è un po' il bug, è un po' il logo che che hanno disegnato per questo Spectre. E diciamo che questo pare essere una roba un poco più difficile da sfruttare e che va a rompere l'isolamento, questa volta non direttamente diciamo, da user space a opere, diciamo, a sistema operativo, no? Ma invece tra user space e user space. E quindi sostanzialmente permette di condizionare in qualche modo le applicazioni per andare a cercare dentro le applicazioni pezzi di memoria che siano utili e di nuovo contengano password o quelle cose che è utile per un signor hacker possedere. E pare che questo punto sia un poco più difficile, però ha di buono dal punto di vista diciamo dello sfruttatore di bug anche il fatto che è molto più difficile da mitigare. Cioè una patch per questo Spectre bene bene e non si sa ancora bene come diciamo come tirarla fuori a modino. E questa cosa è appunto interessante, sempre dal mio punto di vista molto di parte, perché mi sembra che andiamo a costruire un mondo sempre più ipertecnologico e in qualche modo un mondo sempre un casino fragile, dove ti viene venduta la tecnologia come super necessaria, ma poi te ne si fa anche nello stesso modo il tuo gran nemico. Cioè, ci sono queste due anime schizofreniche per cui tutti hanno bisogno di questa cosa, ma la tecnologia è anche qualcosa di terrifico e terrorizzante. Capito? Da cui devi difenderti e non sai neanche bene come fare perché sono delle cose talmente complesse che è difficile capire spesso anche per i ricercatori diciamo, trovare questi bug. Questo, tra l'altro, questo Meltdown e Spectre hanno avuto una storia abbastanza strana perché era una roba nell'aria sostanzialmente. Infatti, ci sono 4-5 gruppi sparsi nel mondo di ricercatori che lavoravano su questa roba e più o meno se ne sono usciti tutti in questo periodo, cioè un mesetto fa, con degli annunci in cui spiegavano che sì, effettivamente esisteva questo problema. Questo problema, tra l'altro, nasce da l'esigenza dei processori di fare una cosa abbastanza buffa che serve ad accontentare sostanzialmente l'utente, cioè a far andare tutto più veloce. Cioè loro tentano praticamente di eseguire tutto il codice di un'applicazione, di un programma, anche se quel codice di fatto non viene mai eseguito, perché cioè spesso i programmi hanno dei salti condizionali, no? Cioè vai di qui o vai di là, se succede quella cosa vai di qui, se no vai di là. Ora, se io sono un processore e inizio a fare tutto, anche i pezzi che non ci sono, li ho già fatti, me li tengo lì in una specie di cache, e poi quando mi servono i conti li ho già fatti. Quindi anche se la mia applicazione, che ne so, faceva 10 più 10 oppure 20 più 20, io faccio sia 10 più 10, 20 più 20, poi non lo so quale mi servirà di questi due, ma io intanto inizio a farli tutti quanti. E questa roba qui è buffa, almeno a spiegarla così alla veloce, proprio per non lasciarvi nel buio più totale, perché sostanzialmente, siccome queste cose vengono conservate, se io ho un'applicazione che fa delle cose brutte che non dovrebbe fare, io però intanto le inizio a fare e me le tengo lì in questa cache. Se io in qualche modo riesco a trovare un modo per arrivare a leggere direttamente diciamo, queste cose brutte, in realtà è come se il mio programma, senza capire cosa stava facendo, avesse già eseguito roba. Però è una roba che fa il processore, quindi è indipendente dai vari controlli che un'applicazione potrebbe fare. E di conseguenza è un gran paciocco anche distinguere, ad esempio, a livello di un antivirus, se uno sta facendo delle cose malevole o no. Perché quel pezzo di codice, in realtà, nessuno l'ha ancora eseguito, l'ha eseguito il processore. E questo è in realtà una cosa buffa. Ora sto dicendo in realtà in continuazione dovrei smetterla, dovrei imparare a parlare e fare un corso di dizione, ma non lo farò e vi tenete me come sono. Anzi, per punizione adesso rimetto punizione mia, cioè mi autopunisco, rimetto i Public Enemy, almeno voi vi godete della musichina bella bella. I'ma put my foot in the thing like it's supposed to be done. Put it on the phone, sing, doing the one. I got right, yeah. Baby. I'ma put my foot in the thing like it's supposed to be done. Put it on the phone, sing, doing the one. I got baby. I'ma put my foot in the thing like it's supposed to be done. Put it on the phone, sing, doing the one. I got say, yeah. Another's freedom fighter. Future tech Molotov cocktails with a lighter. Legalized gang shit, federal BI. You wanna buy a weapon, they won't hesitate a second. Whether African, Mexican, Middle East or Haitian. Slaughter indigenous, plunder the nation. È sempre riferito al bug di cui stavamo parlando, cioè il Meltdown. Vi suggerisco un link dove quelli di voi più curiosi e più capaci e temerari tecnicamente possono trovare appunto questi proof of concept di questo bug. Ci sono anche per quelli che voi non sono temerari ma vogliono solo un po' di pornografia hacker sostanzialmente, ci sono anche dei video che dimostrano diciamo l'esecuzione, tentativo di esecuzione di questo bug su un Ubuntu 16, quindi un Ubuntu relativamente recente. Ora, in molti si specifica che se avete un processore abbastanza buono funziona meglio, appunto perché si riescono a fare i conti per bene, altrimenti ci sta anche che non funzioni niente. Il sito, appunto, che poi magari vi metto nel podcast per bene, comunque sta su GitHub, e che abbiamo citato anche prima come uno dei siti censurati dal buon Erdogan, buono nel senso un buon stronzo. Appunto, che citavo prima, censurati nel 2016 dalla Turchia. Il sito, appunto, è github.com. Poi dovete scrivere IAIK, scritto tutto maiuscolo, cioè Imola Alessandria Imola EK / meltdown. E vi trovate, oppure potete semplicemente andare sul sito che vi ho detto prima, quello meltdownattack.com, scorrere tutto fino al fondo e guardare. A un certo punto trovate il link a sta roba che vi sto dicendo. Lì c'è del codice in C, che è anche un comodissimo makefile. Potete provarvelo, sul vostro computer se vi va di giocare con queste cose. Se cercate sempre su GitHub tipo Meltdown, POC o cose simili, trovate comunque diversi accrocchioni, script, eccetera, che tentano di dirvi se il vostro processore è vulnerabile oppure no. La maggior parte delle volte risulterà che sì. Questo non so se vi farà vivere nell'agitazione. Io manco ci ho guardato, nel senso che non. Cioè, comunque mi sarebbe costata troppa fatica rimettere mano al computer, perché io sì, sono uno di quelli che comunque non c'ha voglia di aggiornare il computer mai, che il computer lo vorrei usare e non passare la mia vita a star lì dietro come fosse il cagnolino che lo devi portare fuori a pisciare e a cagare, se no altrimenti te la fa in casa. E comunque, diciamo, appunto, in questo sito c'è anche una comodissima directory videos, nella quale potete guardare un po' di cose, appunto, anche senza mettervi a smanettare troppo. È pura pornografia del codice. Se vi attizzano queste cose, fatevi un giro, insomma. E tant'è. Ritorniamo con un altro po' di musichina, poi l'ultima notizia che chiude. Intanto mi preparo anche la recensione del libro che vi ho promesso, andrà in onda a fine serata. One time, a poor red top down on the block, and got the stock and broke out and took a different route and moved to LA to throw a Frito-Lay off the dock of the bay. Now me and Junkie still making records that to play. Every rock, now way we slay. We fool down you down like Eleanor the Grin did to Tiger Woods' crib. It's on the internet. Quit it, no shit. So what you wanna do, what you gonna do? I come off the road from nowhere and I bought my crew. Make yourself valuable so the money chases you. Fame ain't equal cause it could degrade you. Somebody claim they made you fame, I make you breakable, then break you. Instead of not paying teachers for teaching, they all get hung up and murdered for sneakers. Famous just to be famous, paparazzi's name is what my name is. She used to sing gospel, then broke away from God's spell. Pitfall was pitiful and she lay in the hospital. Famous politicians in the 80s led to the birth of crack babies. DJ Lord save us from those that cry Davis. Machine of the X created. I hate it. Fame, I hate it. Fame, fame, fame, fame, fame, fame, fame. Che bomba sti Public Enemy, mi dispiace anche tornare a parlare, nel senso che sicuramente sono più fighi loro di me da ascoltare, però comunque vi tocca ancora l'ultima notiziola. Questa è di nuovo un bug, sì, che va a demolire sostanzialmente un prodotto che che tempo fa andava forte, tutti quanti volevano l'Adobe Flash Player per vedere i video e fare le cose così. In realtà questo Adobe Flash Player si rivela poi da un punto di vista, diciamo, della pulizia di scrittura del codice, della sicurezza, eccetera, un gran maialaio sostanzialmente, non una roba dove non si capisce molto. In particolare soffre ormai da anni di bug a oltranza che sfruttano diciamo, una tecnica che si chiama user after free, cioè gestisce malissimo, diciamo, la memoria, quella che viene definita di solito la heap, cioè quella dei dati dinamici. Ora non mi interessa capire tutta questa roba, però è bello magari sentire queste parole così poi quando le potete ridire agli amici, oppure se volete approfondire ve le andate a cercare. Comunque, diciamo, Flash era venuto agli onori delle cronache anche italiane, perché quando era stato bucato qualche anno fa, violato qualche anno fa, la sede, i computer, di Hacking Team, che è sostanzialmente un'azienda italiana che produce malware per polizia, forze dell'ordine e cose simili. E quando anni fa sono stati bucati da questo gruppo o singolo di hacker, non lo sappiamo, Phineas Fisher, e hanno rilasciato tutto il loro archivio, ecco, tra le varie cose che loro avevano, perché l'avevano acquistata e sostanzialmente non si erano scritte da solo, l'avevano comprato, c'era appunto uno zero days, cioè un bug non ancora noto per Adobe Flash Player, cioè qualcosa che a partire da un'esecuzione di una roba flash, quindi un video fatto ad hoc, eccetera, poteva violare il vostro computer semplicemente inducendovi a fare click su un'applicazione costruita ad hoc. Ecco, questo bug sfruttava appunto una user after free dentro Adobe Flash Player. Ecco, è venuto fuori ora da un gruppo di hacker, ma non di hacker, scusate, un laboratorio legato al governo della Corea del Sud. È venuto fuori che hanno rilevato degli attacchi che loro indicano come provenienti dalla Corea del Nord, che hanno all'interno del loro codice, cioè dei malware che hanno all'interno, una nuova vulnerabilità di flash non ancora conosciuta, quindi un altro zero days. Un altro zero days che però sfrutta sempre una user after free, quindi lo stesso medesimo sistema di quell'altro. Infatti non a caso, dopo lo zero days, tra l'altro, di Hacking Team, che ne so, YouTube o comunque i grossi player, diciamo, i grossi fornitori di contenuti o sull'internet, hanno iniziato a usare l'HTML5, hanno iniziato a sconsigliare l'utilizzo di Flash, che dovrebbe essere qualcosa che va pian pianino morendo. Ecco, e questo, diciamo, dà un'altra botta alla morte di Flash. Dal nostro punto di vista è anche un vabbè, chi se ne frega, però è tendenzialmente per dire che comunque questo oggetto Flash Player è veramente problematico. Cioè, se sui vostri computer ce l'avete, io vi consiglierei caldamente di evitare di evitarne caldamente, insomma, di evitarne utilizzo, perché introduce tutta una serie di problematicità tali. Per cui anche nel minimo, diciamo, cioè quel minimo di buone prassi che io comunque vi inviterei a tenere quando usate un computer, cioè a non fidarvi di quell'oggetto. Però a parte questo, diciamo, se vi tenete sopra Flash Player, rendete la vita a chi vi vuole male abbastanza semplice. Ecco, quindi ve lo riporto sia per una, appunto, per una questione di feticismo tecnico nel raccontare queste cose, ma anche un po' per mettervi in guardia. Tra l'altro, in quanto Flash Player è una schifezza multipiattaforma, attualmente diciamo, i bug di Flash Player sono di fatto dei bug multipiattaforma, cioè interessano praticamente tutto, cioè interessano Windows, Linux, Mac OS X, eccetera, eccetera, appunto perché ne soffrono sostanzialmente. praticamente tutti i browser, sia della Microsoft, Google Chrome, ma anche qualsiasi oggetto che riproduca male o diciamo che tenti di riprodurre i file flash, no? gli FLV. E quindi niente, anche la produttrice di queste cose, l'Adobe, ha rilasciato un avviso in cui appunto si dice che esiste questo problema, non è dettagliato, pare intenzione di rilasciare una patch intorno a febbraio, dovrebbe essere il 5 febbraio, quindi forse l'ha anche già rilasciata, non lo so, io non sono corso sul sito dell'Adobe a guardare, me ne frego abbastanza, nel senso il 5 oggi, se proprio ci tenete a essere super aggiornati, per quanto serve, io dico sempre che serve il giusto, è meglio non avercelo proprio piuttosto che rinseguire l'aggiornamento di questo oggetto. Comunque, e questo era anche la notiziola, che tutta la puntata è andata praticamente a partire da cose più comprensibili fino a cose più da appunto da feticismo informatico, però appunto man mano che avanza la sera e i bambini vanno a letto possiamo spingerci su questo livello più di pornografia acara. E vi rimane però in chiusura della puntata, dopo un pochino di musichina perché i Public Enemy li voglio rimettere ancora un pochetto, la recensione del libro che vi annuncio quando sarà tempo. Duck down, can't handle the truth. Now the club ain't no church and the church ain't no club. Check them DJs mixing up murder and love. Whose shoulders the burden of all that murdering? The people, love spelled backwards is evil. Misspelled, what the hell, the people get pain. Dumb from another marketing campaign. It's my birthday and we still killing the stage. I don't give a damn about popping champagne. Say what y'all wanna say about change. Revolution, I'ma say what I'm saying. Come on now, say it like a do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. Say it like it really is. Do it like it really is. But the revolution goes on and on. Still wide awake like 6 in the morning. Had to get it out. Through the break of dawn and we're still saying what we saying and not playing, y'all. Do it like it really is. Do it like it really is. Do it like it really is. Come on. The difference where I pick up the black and the brown. The dismiss the man, informants and governments. While real people starve and can't pay their rent. They say, you seriously don't mean what you meant. I ain't tricked, deceived, paid off an agreement. Somebody planned it, glad y'all understand it. Those that don't, hard-headed like granite. We look out for them too and don't take them for granted. Like said, I said, somebody planned it. If I see one more person, gonna ask me again. Y'all still making music? Where I begin? Now y'all know you don't buy no records no more. No tapes, no CDs, no record stores. Got download zones and selling tones. But your mama and them can't work them cell phones. But the revolution goes on and on and still wide awake like 6 in the morning. Had to get it out. Siamo giunti dunque in chiusura, abbiamo ascoltato per tutta la puntata i Public Enemy, The Evil Empire of Everything, e ora appunto come promesso vi faccio partire questa recensione registrata un po' di tempo fa, ma ce ne sarà una settimana a cura della biblioteca del Next Emerson. Ho perso chiaramente il foglietto dove mi ero scritto tutti i dati su... su il testo recensito, quindi non posso fare altro che lanciarla e lasciarvi all'ascolto e a farvi scoprire tutto quanto, se avrete voglia di resistere. I tutti 7 minuti e 28 della recensione sono pochi, e ricordo, cioè l'unica cosa che mi ricordo precisamente è che comunque è una recensione abbastanza in linea con un'iniziativa che si sta svolgendo in questo momento a PDM, qui a Firenze, a Ponte di Mezzo. È un'iniziativa antipsichiatrica, e anche il testo in questione tratta appunto di antipsichiatria. Il titolo però del libro non lo so, perché sono ignorante, potrebbe pure essere lo stesso che presentano, che è oggetto della discussione a PDM, ma io non lo so perché appunto ho perso tutto il foglietto, e di questo faccio pubblica ammenda. E ora via con la recensione. Finite. Si può essere accusati e rinchiusi in manicomio criminale, come è successo a un esponente dei Verdi, anche con diagnosi di altruismo morboso. Nonostante il superamento dei manicomi attraverso la famosa legge Basaglia, e nonostante la recente evoluzione che ha portato, sembra, alla chiusura dei famigerati OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, la cronaca continua a riportare casi di morte per TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ricoveri forzati, accertamenti sanitari obbligatori e simili. Dove comincia la polizia, finisce ogni possibilità di scienza, e se comunque per Freud come per Jung è inutile da parte del medico cercare di guarire a tutti i costi, dal lato poliziesco invece l'uso della psichiatria come forma di controllo è noto quantomeno fin dagli ultimi tempi dell'URSS, quando qualunque dissidente era automaticamente definito malato di mente. Qualcuno o qualcuna ricorderà persino il giudizio che diede su simili pratiche Primo Levi. Primo Levi scriveva: comporta un uso abietto della scienza e una prostituzione imperdonabile da parte dei medici, che si prestano così servilmente a assecondare i voleri dell'autorità. Sarebbe ipocrita da parte nostra applicare due pesi e due misure all'esperienza attuale italiana e a quella dell'URSS del dopo Brezhnev. Giuseppe Bucalo, ex psichiatra, nella sua opera Dizionario antipsichiatrico, edito dall'edizione Sicilia.l, demolisce molte delle convinzioni comuni sul tema della cosiddetta malattia mentale. Già nell'introduzione ci porta a riflettere su a chi serva considerare certi comportamenti come sintomi e sull'arbitrarietà del nostro giudizio circa la follia o la normalità. Il primo capitolo dell'opera si intitola Che cos'è la malattia mentale? L'autore, forte della sua esperienza, ci dimostra che non esiste nessun criterio veramente scientifico. E scrive: se ci trovassimo davvero in campo medico, ciò costituirebbe un paradosso. Tutto ciò che ci è incomprensibile, soprattutto se per giunta da noi agli altri, è passibile di venire diagnosticato in campo psichiatrico. Peggio ancora, vista dalla giusta prospettiva, qualunque cosa può esserci incomprensibile. Teoricamente e praticamente, scrive l'autore, noi potremmo ottenere una diagnosi psichiatrica per ognuno dei nostri familiari e amici. Neppure gli psichiatri più esperti riescono a separare, fra virgolette, il grano dall'olio. L'autore riferisce di un esperimento piuttosto famoso in cui persone, tra virgolette, sane si sono consapevolmente presentate in strutture psichiatriche fingendo dei, fra virgolette, sintomi per vedere se gli psichiatri riuscivano a separarli dai, fra virgolette, malati. E nella totalità dei casi gli psichiatri non sono riusciti a capire chi era, tra virgolette, sano e chi simulava. L'autore scrive: nel loro rapporto gli sperimentatori citano il fatto paradossale che gli unici a nutrire dubbi sulla loro identità erano stati altri ricoverati. L'esperimento venne in seguito tentato anche al contrario. Venne annunciato ai responsabili di strutture psichiatriche che si sarebbero presentati dei falsi pazienti. In realtà nessun falso paziente venne inviato, ma i direttori sanitari delle strutture in questione rifiutarono ugualmente un gran numero di ricoveri, credendo che si trattasse di sperimentatori. Quindi mancano totalmente i famosi criteri verificabili che definiscono una scienza. Il secondo capitolo si intitola «Che cos'è l'antipsichiatria?». Date le premesse, questa può essere solo un modo di porsi verso il comportamento altrui, nel quale quello che c'è incomprensibile e quello che ci sembra incongruente non è un sintomo patologico. E per giunta, come scrive l'autore, l'idea che senza il nostro aiuto la stragrande maggioranza dei pazienti psichiatrici si suiciderebbe, ucciderebbe qualcuno o vivrebbe sotto i ponti è del tutto infondata. Quest'ultimo concetto viene sviluppato nel capitolo successivo, che si intitola Paradossi psichiatrici. Le cure moderne, non potendo avere serietà scientifica, sono solo metodi di controllo. E neppure è ravvisabile un qualche serio progresso nella loro evoluzione nel tempo. L'autore scrive: il fatto di trattare meglio le persone non significa trattarle da persone. In ipotesi di sopravvivenza, l'autore dà qualche esempio di quale può essere un atteggiamento antipsichiatrico. Giuseppe Bucalo passa quindi a discutere dei pregiudizi più comuni su cosa sia l'antipsichiatria. Essa non fornisce nessuna, per così dire, sociogenesi alternativa della cosiddetta malattia mentale, perché la scienza non è in grado di stabilire che cosa la malattia mentale sia e neppure se essa davvero esista. Quindi l'uso degli psicofarmaci può giustificarsi solo a livello dell'uso di altri generi voluttuari, alcol, tabacco, caffè, eccetera. Non si può parlare di abbandono quando invece si cerca di capire e di dialogare al posto di cercare il controllo e il contenimento. Chiude il volume un dizionario minimo con citazioni di vari studiosi. Chi vuole leggere o consultare quest'opera può trovarla alla biblioteca del Next Emerson, che è aperta ogni sabato pomeriggio. Grazie, arrivederci. See, I played in Cincinnati with my whole head nappy. Made a rally in the street with nothing but a beat. Got a grudge against a judge, kick him out that seat. You all what you eat, yes. It's what you eat, same message to your mind be. Self-defeating, sick and tired of being sick and tired of being beaten. So I'm dropping like it was way too hot, too fast. The hip-hop, doo-wop, a rock, a pop. I ain't here to hurt you, I don't hang in them circles. The government ain't got me yet, so y'all don't stop me. See a stampede of fake cats running for Bill Cosby. What does he got to do with you doing you? Y'all know what? DJ Lord, give me that cut. Bring that beat back, yeah. That's what's up, bring that beat back. Come on, that's what's up, bring that beat back. Bring that beat back. Bring the beat on, yeah. Put a beat on. Gotta think outside this box of hard knocks, line them up at Fort Knox. The dying Iraq, what you don't know, I rock. What you under a rock, what you under a rock. Old cats be begging us to bring that beat back. Each generation be thinking that the next one is whack. Jump started in the days of crack, R&B, Reagan, Daddy Bush, 1980s, where the hell I'm back. I pray to God, I feel like I got a church in myself. Good God, I can't get no help. I say again, health care, cut back, get us whack. Yeah, come on, bring that beat back, come on. E con la recensione si chiude così la puntata. Vi saluto tutti quanti dagli studi di Radio Wombat. Ci vediamo, ci sentiamo. Ci sentiamo la prossima settimana. Se volete sentire la mia trasmissione anche in replica diverse volte alla settimana, prometto che ora mi metto a pubblicare anche i podcast di tutte le trasmissioni passate. E quindi nulla, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre lunedì alle 9, e forse ci sarà di nuovo un'altra recensione di un libro, a meno che non troviamo uno spazio più consono, per ospitarle. Listen to this. For all you MCs in a crew, I said for all you MCs in a crew, I said for all you MCs in a crew, this is what we want y'all to do. When y'all hear it, get near it, and you recognize the lyrics, you train the refrain, and you start to fear it, escapism. Yeah, like today, there ain't no racism. Obviously, y'all ain't seen black folks on TV. Judgment call.